Come certamente ricorderete dai vostri studi liceali, in una notte di maggio dell'anno 415 avanti Cristo ad Atene, alla vigilia della partenza della spedizione in Sicilia, quella con cui Alcibiade si era ripromesso di risolvere una volta per tutte la guerra del Peloponneso, un gruppo di ignoti mutilò quasi tutte le erme, le stevi che sorgevano in onore dell'omonimo dio davanti ai templi e alle case. E se per caso vi chiedeste, come capitava a me quando ero studente, come si fa a mutilare una stele, vuol dire che neanche a voi hanno mai insegnato che quei pezzi di pietra recavano sul davanti un inequivocabile attributo maschile. Il gesto, che a noi può sembrare futile o di importanza puramente simbolico-religiosa, fu considerato all'epoca molto grave. Gli ateniesi d'allora erano evidentemente meno razionali di quanti li consideriamo oggi, e d'altronde Platone era ancora un bambino e Socrate aveva appena cominciato a discutere sulle piazze, e videro in quell'azione l'intento deliberato di suscitare contro la città l'ira degli dèi, in un momento in cui dell'aiuto divino si aveva particolarmente bisogno. Una congiura, insomma, o come diremmo oggi, una trama eversiva. Anche se correva insistente la voce che a perpetrare il misfatto fossero stati semplicemente certi giovanotti un po' bevuti, le autorità preposte alla sicurezza pubblica si rifiutarono di accettarla. Continuavano a dire, ci riferisce una fonte contemporanea, che l'accaduto non poteva essere opera di pochi, ma che aveva come fine l'abbattimento della democrazia, e che perciò bisognava intensificare le indagini e non abbassare la guardia. È una citazione dell'oratore Andocide, Orazione sui misteri, paragrafo 34. E per cui dagli e dagli si trovavano dei testimoni pronti ad affermare di aver visto tutto, si arrestavano i cittadini da loro segnalati, previa sospensione dei loro diritti e immunità perché la situazione era troppo grave per badare a queste sciocchezze, molti furono costretti a tagliare la corda e insomma si instaurò un clima di panico e patria in pericolo che durò finché uno degli arrestati non fu così cortese di accusare dietro garanzia di immunità, oltre a se stesso, anche coloro che il governo soprattutto desiderava che fossero accusati. Erano costoro, sorpresa, gente vicina ad Alcibiade, e per cui fu possibile rovinare la carriera a quel brillante uomo politico e togliergli il comando della flotta, a rischio di mandare a puttane, come regolarmente avvenne, la spedizione in Sicilia, che era probabilmente l'obiettivo che qualcuno si era proposto fin dall'inizio di tutta la faccenda. Questi sono avvenimenti giorno più giorno meno di 2416 anni fa, ma immagino che ne abbiate colto anche voi il valore esemplare. Storiacce del genere hanno caratterizzato a più riprese anche la nostra storia recente. Quante volte, di fronte a qualche mala azione di gruppi chiaramente minoritari, abbiamo sentito dire che l'accaduto non poteva essere di pochi, ma che aveva come fine l'abbattimento della democrazia e che perciò bisognava intensificare le indagini e non abbassare la guardia, non riesco nemmeno a ricordarmelo. E ogni volta, naturalmente, il rafforzamento delle indagini di quo si è risolto in una diminuzione dei diritti dei cittadini inquisiti, nell'aumento del potere degli inquisitori, fino all'inevitabile comparsa del delatore di Stato con garanzie di immunità. Che conseguenze abbia avuto tutto ciò per la nostra società civile, per il nostro sistema giudiziario, ve l'ho già detto tante volte e comunque lascio a voi giudicarlo. Oggi, peraltro, mi accorgo che il metodo si è perfezionato. Sulla necessità di non abbassare la guardia continuano a insistere facendo gara a chi sbraita più forte i membri del governo ed esponenti dell'opposizione, anche se, grazie agli dèi, finora nessuno ha mutilato nessuna erma. Stiamo vivendo una campagna elettorale che non mi sembra ponga grandi problemi dal punto di vista dell'ordine pubblico e che da quello della sicurezza personale comporta solo il rischio di morire di noia, e qualcuno si ostina a riciclare vecchie rivendicazioni, basta usare una fotocopiatrice, e agitare minacce generiche per spiegarci che la democrazia è in pericolo e che bisogna prendere energici provvedimenti. Le autorità competenti, invece di mandare tutti costoro a quel paese, assicurano che no, loro la guardia non intendono certo abbassarla, sono parole quasi letterali del ministro Bianco nel suo ultimo intervento televisivo, e che gli energici provvedimenti sono addirittura d'arrivo. Per la classe politica italiana il terrorismo in senso lato, inteso fino a comprendervi arbitrariamente tutte le forme di opposizione radicale è diventata una necessità vitale. Gridare all'eversione in entrambi gli schieramenti non è soltanto una prassi consolidata, è quasi l'effetto di una forma d'assuefazione. Naturalmente che la democrazia non sia in pericolo, o meglio che i pericoli per la democrazia non vengano da quella parte, lo sanno tutti. Tanto è vero che quando bisogna votare gli energici provvedimenti in questione, i deputati, avendo altro a cui pensare, non si presentano neanche in Parlamento e la seduta, come è successo 3 giorni fa, viene annullata per mancanza di numero legale, che naturalmente non ha chiuso la bocca a nessuno. Io mi chiedo come andrà a finire la spedizione in Sicilia.